Letture di Radio 24. Le donne arrestate nel marzo scorso in Egitto durante le manifestazioni di protesta contro il regime di Mubarak sono state sottoposte dai militari ai test di verginità. Un generale ammette i test, ma si giustifica dicendo: non volevamo che raccontassero di essere state violentate, che equivale a dire che se una donna non è più vergine, lo stupro non è reato. La parrucchiera egiziana Salva Hosseini, 20 anni, è stata una delle prime a denunciare la violenza subita. Non durante il regime di Mubarak, ma nel Nuovo Egitto. Fermata dai soldati davanti al Museo Egizio il 9 marzo, il giorno dopo la festa della donna, Salva ha detto di essere stata legata, piegata al suolo, schiaffeggiata, sottoposta a scosse elettriche con una stun gun e insultata, prostituta. Salva era tornata in piazza Tahrir insieme a centinaia di altri manifestanti per chiedere vere riforme e giustizia per i passati abusi. Ma l'esercito li smobilitò con la forza. Condotta nel carcere di Heikstep, ha raccontato di essere stata costretta a spogliarsi, mentre alcuni soldati dalla porta aperta scattavano foto, e poi in un'altra stanza un uomo in giacca bianca l'ha sottoposta ad un test di verginità. Le ragazze trovate non vergini erano state avvertite che sarebbero state incriminate per prostituzione. Volevano toglierci la dignità. Salva e altre 16 ragazze hanno denunciato simili abusi ad Amnesty International, che li definisce una forma di tortura. Lunedì, per la prima volta, un generale ha ammesso che le ragazze hanno detto la verità. Il Consiglio Supremo delle Forze Armate, che governa il paese dalla caduta di Mubarak l'11 febbraio, le elezioni sono previste a settembre, aveva confermato l'arresto quel giorno di 17 donne e di un totale di 170 persone, poi in buona parte processate in tribunali militari e condannate a un anno di carcere con sospensione della pena, negando però che fossero state torturate. Invece il generale, protetto dall'anonimato, ha detto alla CNN che i test di verginità sono stati condotti, ma li ha difesi. «Le ragazze arrestate non erano come vostra figlia o la mia», ha spiegato. «Queste ragazze erano accampate in tenda con manifestanti maschi in piazza Tahrir e abbiamo trovato lì dentro molotov e droghe». Ha sottolineato che i test avevano un preciso obiettivo. «Non volevamo che dicessero che le avevamo molestate sessualmente o stuprate, per cui volevamo dimostrare che già non erano vergini». E ha concluso: «Nessuna di loro lo era». Parole riprese dai siti di tutto il mondo e da Amnesty, brutali anche per la visione dello stupro come insignificante se una donna non è vergine. Con nuove proteste al Cairo, gli attivisti hanno chiesto un'indagine. Un alto ufficiale, però, ha smentito e accusato la CNN di aver riportato dichiarazioni inesatte. I media siano più precisi prima di pubblicare accuse che macchiano il nome delle forze armate. Ma è un appello che suona male nel giorno in cui gli Stati Uniti si dicono preoccupati per la libertà di stampa in Egitto. L'esercito è accusato di tentare di censurare i media. Un blogger è stato condannato a 3 anni per offesa alle forze armate. E diversi giornalisti e attivisti sono stati interrogati. Tra questi, il blogger Hossam Hamalavi, che aveva detto in TV che come Mubarak non è andato in strada a sparare personalmente ai manifestanti, ma stiamo cercando di processarlo per averli uccisi, così il generale Hamdi Badin è responsabile per la polizia militare che ha commesso dei crimini. Nuovi casi di maltrattamenti e torture, ignorati in gran parte dai media locali, circolano sul web e vengono esaminati dai gruppi per i diritti umani. Nessuno chiede un ritorno all'Egitto di Mubarak, ma gli attivisti non si accontentano della testa dell'ex presidente e dei figli che verranno processati il 3 agosto e sono pronti a respingere e, se necessario, sfidare le autorità in nome del nuovo Egitto della rivoluzione. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Viviana Mazza, Test di verginità alle egiziane, indignazione contro i militari, dal Corriere della Sera del 2 giugno. Letture di Radio 24. Parigi come Roma. Un ponte sulla Senna diventa il punto di ritrovo per gli innamorati che scrivono sui lucchetti le loro promesse d'amore. Tobias e Verena, Ben e Laura, Riccardo e Giulia, Arnaud e Clotilde, Stephanie e Bird. Gli italiani possono forse mancare? Marco e Giulia, con tanto di data 26 febbraio 2011, Tatiana e Umberto, Barbara e Christian, non solo etero, anche Valeria e Tania, segno dei tempi, sono passate di qui. Parigi, ponte dell'Archevêche, dell'Arcivescovado, sul braccio della Senna fra la Rive Gauche e i giardini di Notre Dame, con vista spettacolare sull'abside. Il nuovo centro del romanticismo cittadino è qui. Qui quel che resta del mito di Parigi come città dell'amore. Sempre in un perenne bianco e nero da foto di Doisneau con lui e lei, bellissimi e innamoratissimi, che si baciano fra la folla davanti all'Hôtel de Ville. Adesso, invece, attaccano il lucchetto al parapetto del ponte. Il rituale è sempre quello. Si sceglie il posto, ci si scambiano promesse d'amore eterne, si scrivono i nomi sul lucchetto, lo si attacca e si affidano le chiavi al fiume. Semplice, pratico, romantico e poco costoso. È una moda in tutto il mondo. In Italia fu rilanciato, manco a dirlo, da Federico Moccia e dal film tratto da uno dei suoi libri vietati ai diabetici, Ho voglia di te, in cui Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti lucchettavano il loro amore a Ponte Milvio, a Roma, imitati nella realtà da tanti adolescenti che il lampione del ponte minacciò di rovinare nel Tevere. Del resto a Mosca sono stati installati degli alberi metallici per permettere agli innamorati di appendere lì i lucchetti e senza poterci incidere sopra le iniziali come sugli alberi veri. L'Ariosto lo fa già fare ad Angelica e Medoro. A Parigi i ponti lucchettabili sono tre. Quello tradizionale è il Pont des Arts, accanto al Louvre, ma è in leggero declino dopo il mistero dell'anno scorso. In una notte qualcuno fece sparire diverse centinaia di lucchetti, mai più ritrovati. Sia il comune che la prefettura di polizia hanno sempre negato di aver organizzato il blitz, che quindi resta di autore anonimo. Forse un cinico nauseato dall'eccesso di melassa, o un deluso che non crede nell'amore, men che meno eterno. L'altro tempio del lucchetto è la passerella intitolata Léopold d'Arsengor, che attraversa la Senna all'altezza del settimo arrondissement, con vista sulla Gare d'Orsay. Qui però i lucchetti sono tradizionalmente disciplinati, attaccati alla rete metallica del parapetto in ordinate fila parallele. Meglio allora l'allegro disordine del ponte dell'Arcivescovado, con le serrature che scintillano al sole e sembrano coprire il ponte con un tappeto di metallo. Ormai è un'attrazione turistica. Ieri, in una ventina di minuti, sono passate con sosta e sproloquio della guida due comitive di americani e una coppia di sposi ci si è fatta fotografare. Come sempre, l'amore di qualcuno è anche un affare per qualcun altro. Nelle botteghe di souvenir e, ai noi, anche dai bookinist, che ormai, come del resto le librerie vere, tutto vendono meno i libri, spuntano dei lucchetti preta a crochet, in vendita da 3 a 5 euro. Ma previa contrattazione, gli ambulanti nordafricani te lo lasciano anche per uno. I più previdenti però se li portano da casa, come due tedeschi illeggibili che il 20 ottobre 2010 hanno immortalato qui le loro Silber Hochzeit, le nozze d'argento, o Kerry e Brendan, un lucchetto per la Honeymoon in Paris, la luna di miele a Parigi, miele freschissimo, 26 marzo 2011. Misteriosi sia i nomi che i messaggi di due anglosassoni. Traducendo, l'amore è dormire o non dormire. In aeroporto per 65 ore, solo per avere una chance. Chissà che storia c'è dietro. E comunque, se giri il lucchetto, un paio di disegni molto espliciti fanno capire che, in aeroporto o no, in realtà allora si dormì proprio poco. Insomma, in tempi di alta instabilità sentimentale, viene il sospetto che questi innamorati vogliano soprattutto rassicurarsi che l'eletto sia quello giusto e che l'amore possa davvero essere eterno. Qui si finisce quasi per crederci. L'angolo è splendido, il sole splende e una fisarmonica vicina suona La Vie en Rose, come ormai a Parigi succede solo nei film di Woody Allen. Sarà, ma poi uno si ricorda del principe di Salina. L'amore, fuoco e fiamme per un anno, cenere per 30. E gli passa. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Alberto Mattioli, Parigi diventa capitale dei lucchetti, dalla stampa del 31 maggio.